Tornato quella sera alla baracca con l'argento che aveva ricevuto e non ancora toccato, lo raccontò a Olan, che disse: «Li ho visti, vado sempre da loro a mendicare, perché sono gli unici che mettono nella mia ciotola argento e non rame». Ma né Wang Lung né sua moglie pensavano che la straniera avesse dato dell'argento perché aveva buon cuore, ma piuttosto per ignoranza, perché non sapeva che ai mendicanti è più giusto dare il rame che l'argento. Eppure, grazie a quell'esperienza, Wang Lung imparò quel che gli altri giovani non gli avevano insegnato, cioè che apparteneva alla propria razza, quella di chi ha i capelli e gli occhi neri. Così, aggrappati ai margini della grande, caotica e ricca città, sembrava che almeno il cibo non sarebbe mancato. Wang Lung e la sua famiglia erano arrivati da un paese dove se la gente muore di fame è perché non c'è cibo, perché la terra non può dare frutto sotto un cielo implacabile. L'argento in mano serviva poco perché non poteva comprare niente laddove non c'era niente. Qui in città c'era cibo dappertutto. Lungo le strade e lastricate del mercato del pesce erano allineati grossi cesti di grandi pesci d'argento presi di notte nel fiume brulicante e poi tinozze piene di pesciolini luccicanti presi da una rete che era stata gettata sopra uno stagno. Mucchi di granchi gialli che si dimenavano e pizzicavano con stupore stizzoso, sinuose anguille per i festini dei buongustai. Ai mercati del grano c'erano cesti tali che un uomo avrebbe potuto entrarvi e affondare e soffocare, e nessuno che non l'avesse visto l'avrebbe saputo. Riso bianco e marrone, frumento giallo scuro o dorato pallido, fagioli di soia gialli e fagioli rossi, fave, verdi e miglio color canarino e sesamo grigio. E ai mercati della carne, maiali interi appesi per il collo, i grandi corpi aperti in lunghezza per mostrare la carne rossa e gli strati di buon grasso, la pelle soffice, spessa e bianca. E nei negozi, appese ai soffitti e alle porte, file e file di brune anatre arrostite che erano state rigirate lentamente su spiedi davanti a tizzoni, e le bianche anatre salate, e le strisce di frattaglie d'anatra. E lo stesso era nei negozi che vendevano oche, fagiani e ogni genere di volatili. Quanto alle verdure, c'era tutto ciò che la mano dell'uomo poteva indurre il suolo a donare: rossi ravanelli scintillanti e bianchi taro e radici cave di loto, verdi cavoli e sedani, germogli di soia arricciati e castagne marroni e guarnizioni di fragranti crescioni. Non c'era niente di ciò che l'appetito dell'uomo può desiderare che non si trovasse sulle strade dei mercati di quella città. E c'erano poi i venditori ambulanti di dolci e frutta e noci, calde e squisite patate dolci rosolate in olio dolce e polpettine di maiale delicatamente speziate, avvolte in una pastella e cotte al vapore, e tortine dolci fatte di riso glutinoso. E i bambini di città correvano dai venditori di queste cose con le mani piene di monetine e compravano e mangiavano fino ad avere la pelle scintillante di zucchero e olio. Si sarebbe proprio detto che in quella città nessuno potesse soffrire la fame. Eppure, ogni mattina, poco dopo l'alba, Wang Lung e la sua famiglia uscivano dalla loro baracca con le ciotole e le bacchette. Formavano un gruppetto all'interno di una lunga processione di persone, ciascuna uscita dalla sua baracca, tremante, in vestiti troppo leggeri per la nebbia umida del fiume, che camminavano curve contro il freddo vento del mattino in direzione delle mense pubbliche, dove per un centesimo si poteva comprare una ciotola di liquida pappa di riso. E nonostante tutte le corse di Wang Lung, quando tirava il suo rickshaw, e le elemosine ricevute da Olan, non riuscivano mai a mettere insieme abbastanza per cucinarsi il riso nella loro baracca. Se avanzava un centesimo, dopo aver pagato il riso alle mense dei poveri, compravano un po' di cavolo, ma il cavolo costava caro perché i due bambini dovevano andare a caccia di combustibile per poterlo cucinare fra i due mattoni che Olan aveva sistemato a fare da stufa. E il combustibile dovevano cercare di afferrarlo a manciate dai contadini che portavano i carichi di canne ed erba ai mercati di combustibile della città. A volte i bambini venivano sorpresi e si prendevano un sonoro ceffone, e una sera il maggiore, che era più timido del minore e si vergognava di più per quel che faceva, tornò con un occhio gonfio e chiuso, ridotto così dalla mano di un contadino. Ma il minore divenne abile, e certo più abile nei piccoli furti che nel chiedere l'elemosina. Per Olan questo non era niente, se i bambini non potevano fare a meno di ridere e giocare, che rubassero per riempirsi la pancia. Ma Wang Lung, pur non avendo nulla da risponderle, era disgustato da quei piccoli furti dei suoi figli e non criticava il maggiore se era maldestro. La vita all'ombra del grande muro non era quella amata da Wang Lung, c'era la sua campagna che lo aspettava. Una sera arrivò tardi e nello stufato di cavolo c'era un bel pezzo tondo di maiale. Dopo l'uccisione del bue, era la prima volta che avevano della carne e gli occhi di Wang Lung si spalancarono. «Devi aver ricevuto l'elemosina da uno straniero oggi», disse a Olan. Ma come era sua abitudine, lei non disse niente. Allora il figlio minore, troppo piccolo per avere giudizio e pieno di orgoglio per la sua astuzia, disse: «L'ho presa io! La carne è mia!» Quando il macellaio ha guardato dall'altra parte, dopo che l'aveva tagliata dal grande pezzo che stava sul banco, io mi sono infilato sotto il braccio di una vecchia che era venuta a comprarla, l'ho afferrata e sono corso in un vicolo, e l'ho nascosta in un vaso asciutto per l'acqua alla porta di dietro fin quando è arrivato fratello maggiore. Allora questa carne non la mangerò, esclamò con rabbia Wang Lung. Mangeremo la carne che possiamo comprare o ricevere in elemosina, non la carne rubata. Possiamo essere mendicanti, ma non siamo ladri. E con due dita prese la carne dalla pentola e la buttò a terra, incurante delle grida del bambino. Olan si fece allora avanti, impassibile come sempre, prese la carne, la sciacquò con un po' d'acqua e la rimise nella pentola bollente. La carne è carne, disse tranquillamente. Wang Lung non disse più niente, ma dentro di sé era pieno di rabbia e paura, perché in quella città i suoi figli stavano diventando ladri. E anche se Wang Lung non disse niente quando Lan staccò con le bacchette la carne tenera, e anche se non disse niente quando lei ne diede grandi pezzi al vecchio e ai bambini, e ne riempì persino la bocca della bambina e la mangiò lei stessa, lui non ne volle e si accontentò del cavolo che aveva comprato. Ma dopo il pasto prese il bambino piccolo, lo portò in strada, fuori dalla portata d'orecchio della donna, e là, dietro una casa, prese sotto il braccio la testa del bambino e lo schiaffeggiò con forza da un lato e dall'altro, e non si lasciò fermare dalle sue urla. «Così, è così, è così!» gridò. «Ladro che non sei altro!» Ma dopo averlo lasciato tornare a casa in lacrime, si disse: «Dobbiamo tornare alla terra!» 13. Giorno dopo giorno, sotto l'opulenza della città, Wang Lung viveva nelle fondamenta di povertà su cui questa posava. Nonostante il cibo traboccante nei mercati, le strade dei negozi di sete con le insegne svolazzanti di seta nera e rossa e arancione che reclamizzavano le merci, nonostante i ricchi dagli abiti di raso e velluto o con le carni soffici e la pelle coperta di indumenti di seta, e le maniche per morbidezza e profumo e per la bellezza derivante dall'ozio facevano pensare a fiori, nonostante tutto ciò che faceva la bellezza regale della città, là dove viveva Wang Lung non c'era abbastanza cibo per nutrire la fame selvaggia, né abbastanza abiti per coprire le ossa. Gli uomini lavoravano tutto il giorno facendo pane e dolci per le feste dei ricchi, e i bambini lavoravano dall'alba fino a mezzanotte e dormivano, così com'erano, tutti sudici e unti, su rozzi giacigli per terra, e barcollavano fino ai forni il giorno dopo. E gli uomini non avevano i soldi per comprare ai bambini i ricchi pani che facevano per gli altri. E uomini e donne lavoravano tagliando e confezionando pellicce pesanti per l'inverno e soffici pellicce leggere per la primavera, e tagliavano e cucivano spesse sete broccate per farne abiti sontuosi per quelli che mangiavano l'abbondanza dei mercati, mentre loro prendevano per sé un po' di rozza tela di cotone azzurro e la cucivano in fretta per coprire la propria nudità. Vivendo insieme a quelli che lavoravano per fare godere gli altri, Wang Lung sentì strane cose a cui prestò scarsa attenzione. Le donne e gli uomini più anziani, in effetti, non dicevano niente a nessuno. Vecchi dalla barba grigia tiravano rickshaw, spingevano carriole di carbone e legna da consegnare a forni e palazzi, affaticavano le schiene fin quando i muscoli sporgevano come funi, e spingevano e tiravano pesanti carretti carichi di merci sulle strade lastricate. Mangiavano frugalmente il loro magro cibo, dormivano le loro brevi notti all'aperto e non parlavano. Le loro facce erano inespressive, mute, come quella di Olan. Nessuno sapeva cosa passasse nella loro mente. Se parlavano era solo di cibo o di monete di rame. Sulle loro labbra fiorava raramente la parola argento, perché l'argento finiva raramente nelle loro mani. Le loro facce, quando riposavano, erano distorte come dalla rabbia, ma non si trattava di rabbia, era stato il portare per anni carichi troppo pesanti a sollevargli le labbra superiori che ora scoprivano i denti come se ghignassero, e quella fatica aveva inciso rughe profonde nella carne attorno ai loro occhi e alla bocca. Nemmeno loro sapevano che genere di uomini fossero. Una volta uno di loro, vedendosi in uno specchio che passava su un carro pieno di oggetti domestici, esclamò: "Che brutto uomo!" E quando vide gli altri ridere di lui, fece un sorriso penoso perché non sapeva di cosa ridessero e subito si guardò intorno per capire se avesse offeso qualcuno. A casa le donne, nelle piccole catapecchie dove vivevano ammassate l'una sull'altra attorno alla catapecchia di Wanlung, cucivano insieme stracci facendone coperte per i bambini che continuavano a generare, e rubavano foglie di cavolo dai campi dei contadini e manciate di riso dai mercati del grano e raccoglievano tutto l'anno l'erba sulle colline. E al momento del raccolto seguivano i mietitori come dei volatili, gli occhi attenti a individuare ogni chicco o stelo caduto. E i bambini passavano attraverso quelle catapecchie, nascevano e morivano e nascevano ancora fin quando né la madre né il padre sapevano quanti erano nati o morti, e quasi non sapevano quanti fossero vivi perché pensavano a loro solo come a bocche da sfamare. Uomini e donne e bambini entravano e uscivano dai mercati e dai negozi di stoffe e giravano per la campagna intorno alla città. Gli uomini facevano qualche lavoro per pochi centesimi, mentre le donne e i bambini rubavano e mendicavano e arraffavano, e Wang Lung e la sua donna e i suoi figli erano fra loro. I vecchi e le vecchie accettavano la vita che avevano, ma poi arrivava un momento quando i ragazzini crescevano e raggiungevano una certa età, prima di diventare adulti e quando ormai non erano più bambini, in cui erano pieni di scontento. Circolavano discorsi fra i giovani, discorsi ostili, arrabbiati, e in seguito, quando erano sposati e pienamente uomini, e lo sgomento per il numero di figli che aumentava si impossessava del loro cuore, la rabbia disordinata della loro giovinezza si raccoglieva in una truce disperazione, in una rivolta troppo profonda per semplici parole, perché faticavano più delle bestie e solo per manciate di scarti con cui riempirsi la pancia. Una sera, ascoltando quei discorsi, Wang Lung sentì per la prima volta cosa c'era dall'altra parte del grande muro attorno a cui si aggrappavano le file delle loro baracche. Era il termine di una di quelle giornate di fine inverno, quando per la prima volta sembra possibile che la primavera ritorni. Il terreno attorno alle baracche era ancora fangoso per via della neve che si andava sciogliendo, e l'acqua scorreva nelle baracche, così che ogni famiglia era andata qua e là in cerca di qualche mattone sopra cui dormire. Ma nonostante il fastidio della terra bagnata, quella sera c'era nell'aria qualcosa di dolce e mite, e quella mitezza rendeva Wang Lung estremamente irrequieto, tanto che non riuscì ad addormentarsi immediatamente, dopo aver mangiato, come era sua abitudine, e uscì e rimase sul bordo della strada a far niente. Proprio lì suo padre stava abitualmente accovacciato sulle cosce e appoggiato al muro, e lì sedette. Dopo aver preso la sua ciotola di cibo per mangiare con calma, ora che la baracca era così piena delle grida dei bambini che per poco non scoppiava. Il vecchio teneva in una mano un'estremità di un cappio fatto col tessuto che Olan aveva strappato dalla propria cintura. E all'interno di quel cappio la bambina barcollava avanti e indietro senza cadere. Passava così le sue giornate, badando alla bambina che ormai si ribellava a stare sul petto della madre quando lei mendicava. Olan, inoltre, era nuovamente incinta e il peso esterno della bambina ormai grandicella era per lei troppo doloroso da sopportare. Wang Lung osservava la bambina cadere, rialzarsi e poi cadere di nuovo, e il vecchio, che tirava le estremità del cappio e sentiva sulla faccia la mitezza del vento serale, e in lui sorse un'immensa nostalgia dei suoi campi. In una giornata così, disse ad alta voce al padre, i campi dovrebbero essere lavorati e il frumento coltivato. Ah, disse tranquillamente il vecchio, so cosa pensi. Due volte, poi ancora due volte nella mia vita ho dovuto fare quello che abbiamo fatto quest'anno e lasciare i campi sapendo che non c'era seme per un nuovo raccolto. Ma sei sempre tornato, padre. Là c'era la campagna, figlio mio, disse semplicemente il vecchio. Anche loro sarebbero tornati, allora, se non quell'anno, il prossimo, si disse in cuor suo Wang Lung, finché c'era la campagna. E il pensiero dei campi che lo attendevano, ricchi delle piogge di primavera, lo riempì di nostalgia. Tornò alla catapecchia e disse bruscamente a sua moglie: «Se avessi qualcosa da vendere, lo venderei e tornerei ai campi. O se non fosse per il vecchio, cammineremmo, nonostante la fame. Ma come possono lui e la bambina piccola camminare 100 miglia, e tu con il tuo fardello?» Olan aveva sciacquato le ciotole del riso con un po' d'acqua e le stava impilando in un angolo della baracca e lo guardò dal punto in cui stava accovacciata. «Non abbiamo niente da vendere se non la bambina», rispose lentamente. Wang Lung si sentì mozzare il respiro. «No, non venderei una figlia», disse ad alta voce. «Io sono stata venduta», rispose lei molto lentamente. «Sono stata venduta a una grande casa per permettere ai miei genitori di tornare a casa». «E quindi la venderesti?» «Se fossi sola, preferirei vederla morire piuttosto che venderla, schiava di schiavi, questo sono stata io. Ma una bambina morta non porta niente, la venderei per te, per riportarti alla campagna». «No, non lo farei nemmeno io», disse Wang Lung con risolutezza, «anche se dovessi passare la mia vita in questo deserto». Ma dopo che fu nuovamente uscito, quel pensiero che da solo non gli sarebbe mai venuto, lo tentò contro la sua volontà. Guardò la bambina che continuava a barcollare in fondo al cappio che il nonno le teneva. Era molto cresciuta grazie al cibo ricevuto ogni giorno e, benché non avesse detto ancora una parola, era tonda come poteva essere una bambina che riceveva appena il necessario. Le sue labbra, che prima assomigliavano a quelle di una vecchia, adesso erano sorridenti e rosse, e come un tempo, quando Wang Lung la guardò, diventò allegra e sorrise. «Avrei potuto farlo», disse fra sé, «se non l'avessi tenuta sul mio petto e non sorridesse così». E poi pensò di nuovo alla sua terra ed esclamò con impeto: «Non la vedrò più, con tutta la fatica e l'elemosinare che si faccia appena da mangiare». Poi, dal crepuscolo, una voce gli rispose, una voce forte e profonda. Gli rispose: «Non sei il solo, ce ne sono 100 centinaia come te in questa città». L'uomo si avvicinò fumando una corta pipa di bambù. Era il padre della famiglia che viveva 2 baracche più in là rispetto a quella di Wang Lung. Lo si vedeva raramente di giorno perché dormiva e di notte tirava pesanti carri carichi di merci che erano troppo larghi per le strade durante il giorno, quando i veicoli devono continuamente sorpassarsi. Ma a volte Wang Lung lo vedeva strisciare verso casa all'alba, ansimante e stremato, con le sue larghe spalle nodose e piegate, quando lui usciva per andare a tirare il rickshaw. E a volte, al crepuscolo, prima del lavoro notturno, l'uomo usciva e rimaneva con gli altri uomini che tornavano alle loro baracche per dormire. «E questo sarà per sempre?» chiese con voce amara Wang Lung. L'uomo fece 3 tiri di pipa e poi sputò a terra, poi disse: «No, non per sempre. Quando i ricchi sono troppo ricchi ci sono dei modi, e quando i poveri sono troppo poveri ci sono dei modi. L'inverno scorso abbiamo venduto 2 bambine e abbiamo resistito, e quest'inverno, se quello che aspetta mia moglie sarà una femmina, venderemo anche lei. Una schiava l'ho tenuta, la prima. Le altre è meglio venderle che ucciderle, anche se c'è chi preferisce ucciderle senza aspettare il primo respiro. Questo è uno dei modi quando i poveri sono troppo poveri. Quando i ricchi sono troppo ricchi c'è un modo, e se non mi inganno, arriverà presto». Fece un cenno col capo e con il cannello della pipa indicò il muro alle loro spalle. «Hai mai visto dentro il muro?» Wang Lung scosse la testa, fissandolo. L'uomo continuò: «Ho portato là dentro una delle mie schiave per venderla e ho visto. Non ci crederesti se ti dicessi quanti soldi entrano ed escono da quella casa. Ti racconto una cosa. Persino i servi mangiano con bacchette d'avorio dai fregi d'argento, e persino le schiave portano giada e perle alle orecchie e cuciono perle sulle loro scarpe. E quando le scarpe hanno un po' di fango o si fa uno strappo tale che per me te non sarebbe nemmeno uno strappo, loro le buttano via con tanto di perle». L'uomo fece un tiro profondo di pipa mentre Wang ascoltava a bocca aperta. C'erano quindi cose così al di là di quel muro. «C'è un modo quando la gente è troppo ricca», disse l'uomo, e rimase in silenzio per un po'. Poi, come se non avesse detto niente, aggiunse in tono indifferente: «Bene, di nuovo al lavoro. e scomparve nella notte. Ma quella notte Wang Lung non riuscì a dormire al pensiero dell'argento e dell'oro e delle perle dall'altra parte del muro contro cui il suo corpo riposava, il suo corpo avvolto in quello che indossava giorno dopo giorno, perché non aveva coperta che lo coprisse e sotto di lui c'era solo una stuoia posata sui mattoni. E di nuovo fu tentato di vendere la bambina, tanto che si disse: forse sarebbe meglio venderla in una ricca casa, così che possa mangiare squisitezze e portare gioielli, se crescendo diventerà bella e piacerà un signore. Ma contro il suo stesso desiderio si rispose e di nuovo pensò: ma anche se lo facessi, non vale il suo peso in oro e rubini, e se anche ci desse abbastanza da riportarci alla campagna, dove li troveremmo i soldi per ricomprare un bue e un tavolo e un letto e le panche? Devo vendere una bambina per andare a fare la fame là e non qui. Non abbiamo neanche i semi da mettere nei campi. E non vedeva nemmeno un briciolo di quel modo di cui l'uomo parlava quando aveva detto c'è un modo quando i ricchi sono troppo ricchi. 14. La primavera era scoppiata nel villaggio delle baracche. Chi prima aveva mendicato poteva andare adesso sulle colline e sulle terre sepolcrali a strappare giovani e verdi erbacce, i denti di leone e le borse del pastore che gettavano nuove foglie e fragili. E non bisognava più arraffare qua e là un po' di verdura. Un nugolo di donne stracciate e di bambini usciva ogni giorno dalle baracche e con pezzi di latte e pietre affilate o coltelli spuntati e con cesti fatti di rametti di bambù o frammenti di canne intrecciati perlustravano le campagne e le strade in cerca del cibo che potevano ottenere senza mendicare e senza soldi. E ogni giorno Olan usciva insieme a quel nugolo, Olan e i due bambini. Ma gli uomini dovevano continuare a lavorare e Wang Lung lavorava come prima, benché le lunghe giornate calde e il sole e le piogge improvvise riempissero tutti di nostalgia e scontento. Durante l'inverno avevano lavorato ed erano rimasti in silenzio, sopportando impassibili la neve e il ghiaccio sotto i piedi nudi, calzati in sandali di paglia, tornando alle loro baracche quando già era buio e mangiando senza parole il cibo che la fatica e le elemosine del giorno avevano portato. Crollando pesantemente nel sonno, uomini, donne e bambini insieme, procurando ai loro corpi ciò che il cibo troppo povero e scarso non poteva dare. Così era nella baracca di Wang Lung, e lui sapeva bene che così doveva essere in tutte le altre, ma con l'arrivo della primavera le parole cominciarono a levarsi dai loro cuori e a farsi udire sulle labbra. Di sera, durante il lungo crepuscolo, si radunavano fuori dalle loro baracche e parlavano insieme e Wang Lung vide un po' della gente che gli viveva accanto e che durante l'inverno non aveva conosciuto. Se Olan avesse amato chiacchierare, lui avrebbe saputo, per esempio, di uno che picchiava la moglie o di un altro affetto dalla lebbra che gli divorava le guance o di un altro ancora che era il re di una banda di ladri, ma lei non parlava se non per qualche rara domanda e risposta, e così Wang Lung se ne stava con aria diffidente ai margini del cerchio e ascoltava le chiacchiere. La maggior parte di quegli uomini vestiti di stracci non possedeva niente oltre ciò che prendeva lavorando o chiedendo l'elemosina ogni giorno, e Wang Lung sapeva di non essere realmente uno di loro. Possedeva delle terre e lo stavano aspettando. Gli altri pensavano a come mangiare un po' di pesce il giorno dopo, o a come passare del tempo a oziare, o anche a come giocare un po' d'azzardo, un centesimo o due, perché tutte le loro giornate erano segnate dalla sventura e dall'indigenza, e un uomo, per quanto disperato, a volte ha bisogno di giocare. Ma Wang Lung pensava ai suoi campi e rifletteva in mille modi, col cuore malato per la speranza sempre rinviata su come potervi tornare. Lui non apparteneva a quella feccia che si aggrappava alle mura della casa di un ricco e non apparteneva nemmeno alla casa del ricco, apparteneva alla campagna e non sarebbe riuscito a vivere pienamente fin quando non l'avesse sentita di nuovo sotto i piedi, fin quando non avesse seguito l'aratro in primavera e tenuto in mano la falce per il raccolto. Ascoltava perciò in disparte dagli altri, perché nascosta nel suo cuore c'era la certezza di possedere la campagna, il buon terreno da frumento dei suoi padri e la striscia di ricco terreno da riso che aveva comprato dalla grande casa.